storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera cari ascoltatori, buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Ehi Antonio, siamo arrivati ormai alla fine di ottobre. Il tempo corre velocemente. Il tempo corre e siamo già al periodo dei morti, dopo verrà l'estate di San Martino. Vabbè, comunque stasera parleremo di Treviso con due ospiti in studio, il dottor Antonio Basso e l'architetto Giorgio Frantin. Va bene, Antonio, allora cominci tu. Certamente, allora un benvenuto sentito alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Naturalmente abbiamo anche la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. E un cordiale saluto naturalmente al nostro regista. Allora, cominciamo subito con la prima canzone. Non è trevigiana perché, vabbè, dopo ne parlerò in seguito con l'architetto. Non è trevigiana, però è una canzone proprio tipicamente veneta e si è intitolata I Dogobeti. Torniamo in studio. Antonio, allora cominci tu. Abbiamo questa volta come gradito ospite di nuovo il dottor Toni Basso, che parlerà del fiume Sile, come già nella scorsa puntata, questa volta come collegamento fluviale tra la Serenissima e l'Europa. Beh, sì. Buonasera dottore. Buonasera signori. Buonasera. E grazie della vostra ospitalità. Per me è sempre gradita. È un piacere poter offrire a chi ci ascolta i risultati di cose che non sono mie ricerche, sono cose che io ho trovato e che altri hanno messo in luce prima di me. Dicevamo la volta scorsa del fiume come fonte di energia, come strumento di difesa della città, però dobbiamo ricordare che il fiume costituisce anche un veicolo, un mezzo attraverso il quale le genti comunicavano, specialmente prima dell'invenzione della ruota. La riduzione dell'attrito dei mezzi, dei veicoli sul fondo da percorrere era garantita da un mezzo liquido qual è appunto l'acqua, e quindi le civiltà si sono tutte sviluppate, le più antiche civiltà, o sulle coste dei mari o lungo i fiumi. E così è stato anche per Treviso. Treviso aveva questo fiume che nasce a pochi chilometri da Treviso e che in pochi chilometri raggiunge il mare nella laguna veneta, è anche superando un dislivello molto, molto modesto, perché si tratta di 15 metri di altitudine Treviso rispetto al livello del mare, e quindi il percorso è un po' sinuoso lungo le campagne, perché cercava di trovarsi la strada per uscire verso il mare. Scusi dottore, quindi attraverso il fiume con delle barche si passava da un luogo all'altro? Sì, certamente sì. Noi perché ci sono dei ponti, no? Ma allora sì, ci sono ponti, ci sono centrali elettriche, ci sono cose che una volta naturalmente non c'erano. Dobbiamo tenere presente che i collegamenti che Treviso ha avuto non sono stati soltanto con Venezia, ma sono stati anche con ambienti molto lontani. Questo perché Venezia non consente un approdo, specialmente per le merci, che possano poi essere trasbordate su dei carri, perché le rive sono paludose, fangose, e un carro caricato di merci sulle rive della laguna si sprofonderebbe. Quindi il Golfo di Venezia, teniamo presente che è il punto più settentrionale di tutto il Mediterraneo. Una penetrazione verso il centro dell'Europa doveva cercare di guadagnare la riva più a settentrione possibile. Un quindi approdo diverso, giustamente. Diverso, però c'era questo problema, e quindi l'ingegno umano ha escogitato di utilizzare delle vie d'acqua che penetrassero all'interno del territorio della terraferma per consentire il trasbordo delle merci dalla imbarcazione ai carri. Questo è stato per Aquileia, per esempio, che aveva un fiume oggi pressoché inesistente, prosciugato, ma la fortuna di Aquileia al tempo dei Romani è soprattutto dovuta al fatto del suo porto fluviale, che ha fatto di questa città un caposaldo fondamentale della politica militare ed economica romana. La costruzione delle vie consolari che passavano e che puntavano ad Aquileia, ed Aquileia addirittura è diventata la capitale di un patriarcato che ha esercitato un notevole potere politico e economico nel territorio veneto per molti secoli, costituendo anche un pericolo per Treviso, ma ne riparleremo magari un'altra volta. Voglio sapere solo che pericolo per Treviso che poteva avere questa cosa. È l'invasione da parte degli aquileiesi nei confronti del territorio di Treviso. C'è all'epoca degli statuti comunali, magari ne riparleremo quando è il momento, c'è stata questa minaccia di aggressione di Treviso. Tornando alla navigazione lungo il Sile, dobbiamo ricordare come dall'Oriente a Treviso è arrivato Sant'Eonisto, che è stato martirizzato a Musestre, quindi lungo il Sile. San Prosdocimo, che ha portato il cristianesimo a Treviso, è arrivato attraverso il Sile a Treviso, ma anche tutta la cultura orientale, e non solo la cultura ma anche le merci, sono arrivate a Treviso. Quando Aquileia è andata degradando per le vicende idrogeologiche del suo territorio, Treviso un po' l'ha sostituita, e quindi è diventato questo punto fondamentale per i collegamenti tra Venezia e l'entroterra. Certamente la merce doveva essere trasbordata su imbarcazioni più leggere che potessero consentire, ma Treviso era veramente un trampolino verso l'Europa, e questo ha fatto sì che Venezia acquisisse al proprio territorio la città di Treviso e il suo porto, naturalmente, prima e unica città dell'entroterra veneto. Per un'ottantina d'anni Treviso è stata l'unica città di terraferma che faceva parte del dominio veneto. La testa di ponte della Serenissima. Io però sono curiosa, vorrei sapere. Dunque, dall'Oriente è evidente che è arrivato Sant'Eonisto e San Prosdocimo, no? Sì. E come arrivavano? Cioè, attraverso cosa c'erano? Delle barche molto grandi per portare. Beh, erano barche compatibili con il il fiume, che ci potessero essere. Naturalmente non venivano da soli, venivano in occasione di viaggi assieme ad altre persone o al seguito di trasporti di merci. Teniamo presente che a Treviso c'erano questi empori. A Treviso si parlava, per esempio nel Medioevo, si parlava il francese. La poesia franco-veneta ce n'è documentazione, e avremo modo di parlarne magari più avanti, sì, di questo. Ma la presenza addirittura di una università a Treviso sta ad indicare l'importanza che Treviso aveva come ricaduta culturale di un fatto che era economico prettamente economico, sì. Ecco, questo per l'importanza. Dopo, Venezia naturalmente aveva bisogno di rifornimenti attraverso i fiumi. Pensiamo cosa il Piave, per esempio, ha portato di legname dalle foreste del Cadore a Venezia, esatto, per la materia prima per costruire, esatto, le imbarcazioni, certo, ma poi il Montello e il Cansiglio sono stati fornitori, e si dice che Venezia, quando aveva bisogno di queste cose, le conquistasse con l'oro, non con il ferro. Il bosco da remi della Serenissima. Cioè Venezia acquisiva questi rifornimenti comperandoli. A un certo momento ha ritenuto no, è giusto, è opportuno, se non giusto, è opportuno che io mi garantisca le fonti di approvvigionamento, come dire, sì, adesso c'è chi cerca di procurarsi, certo, le fonti di approvvigionamento con i combustibili, esatto, così per Venezia, e quindi Treviso è un po' entrata con tutto il suo territorio a far parte del dominio di terra di Venezia per questi rifornimenti. Ma e poi successivamente ci sono state queste espansioni, perché gli altri hanno visto che la cosa funzionava, che c'era un vantaggio per le città della terraferma e per i suoi loro territori di entrare a far parte della Repubblica di Venezia, e quindi si sono date in qualche maniera con atti sui quali c'è tutta una discussione storica molto che ci porterebbe anche un pochettino lontano, ma si sono dati a Venezia perché hanno visto che conveniva loro, certo, non solo a Venezia, ma conveniva soprattutto a loro. Un aspetto interessante potrebbe essere quello della navigazione controcorrente. Ecco, la navigazione controcorrente era data dalla trazione animale. Lungo i fiumi vennero create delle strade, delle restere, delle strade che presero il nome di restera o di alzaia, o sì, maresane anche, mi che pare hanno di ricordare. La parola resta, chi ha presente le reste de aio, cioè queste trecce che legavano l'aglio fra di loro, e quindi la parola resta sta a indicare proprio l'intreccio, e quindi la parola restera è la corda, è la strada, sì, della, sì, corda, sì, sì, e attraverso la corda le imbarcazioni venivano trainate a riva da animali che per lo più erano buoi, ma potevano essere anche cavalli, e questi dalla riva trainavano le imbarcazioni, anche da esseri umani nel anche caso dei, sì, lavanderi, per esempio. Sì, perché ecco, la lavanderia, a proposito di acqua pulita, ne abbiamo accennato la sera scorsa quando si è parlato dell'acqua pulita di Treviso. Venezia di acqua ne aveva moltissima, però come sì, si faceva a lavare i panni a Venezia in quell'acqua? E quindi attraverso le imbarcazioni il bucato veniva inviato in queste ceste a Treviso per essere lavato, queste ceste di biancherie. Mamma mia! E quindi la chiarezza delle acque di Treviso era utilizzata anche e soprattutto per questo scopo, ma venivano inviate, scusi dottore, venivano inviate con le ceste, ma dopo qui a Treviso c'era qualcuno? Eh beh, che, c'erano, ecco, appunto, lavandere e lavandere, sì, sì, sì, sì, che provvedevano a lavare sul sile, e dopo le rispedivano sile, a Venezia, Roncade, Musestre, San Cipriano, Treviso, tutto Casier, naturalmente. Che interessante. Ecco, e quindi l'importanza del, dicevamo prima, della corda. La corda Naturalmente va bene se noi riusciamo a immaginare una strada diritta, però ci sono anche le curve da superare, soprattutto le curve che girano a destra, perché a sinistra, se la strada risale verso sinistra, la corda si tende e attraversa un po' l'acqua, ma se la strada fa un percorso che gira a destra, pensiamo ad esempio a Treviso, a valle del Ponte della Gobba c'è una curva che si chiama la curva del Manganel, nella quale l'animale che si trovava sulla riva percorreva, girava a destra, e quindi se avesse tirato la corda sarebbe passata attraverso la strada, e quindi perché la direzione della forza era modificata, e quindi bisognava sistemare come delle carrucole sull'esterno della restera in modo che la corda potesse girare attorno a queste carrucole, e tirando verso destra questa tirava verso la città. Ecco allora che sono stati piantati dei paracarri, sono 5 ancora conservati, che recano sul bordo esterno le rigature di questa corda che strisciava, perché la carrucola non era mobile, era fissa, una specie di paracarro. Uh-huh. Sono lì trasandati, io anche sollecitato l'amministrazione comunale a restaurarli e a metterli in evidenza e a far capire come questi siano documenti interessanti di un modo di usare il fiume, di usare la strada. Nelle pietre miliari praticamente, pietre fluviali. E dove si trovano così? Questi 5? Alla curva del Manganaglio, in via Alzaia, tra il Ponte della Gobba, nella zona prospiciente l'ospedale del Caffoncello. Ho capito. E poi arrivavano fino in città, non c'era il Ponte della Gobba, perché quello lì è stato fatto in occasione, a metà dell'Ottocento, in occasione della costruzione della linea ferroviaria. Non c'era la cascata che chi ha qualche anno se la ricorda, a valle del castello lì al Ponte Garibaldi, non c'era il Ponte Garibaldi, e quindi superava quella curva là e entrava in città, in quella zona dell'attuale Piazza Garibaldi, che era il porto fluviale di Treviso. E il passaggio della mura in quel punto la mura era interrotta, perché in epoca medievale le porte che erano rimaste dopo Fra Giocondo erano 3 soltanto: la Porta Altina, la Porta San Tommaso e la Porta Santi 40, ma c'era una piccola porta che consentiva il passaggio degli animali, un portello che potessero proseguire il loro percorso in modo da consentire la continuità della trazione dei barconi però di questo portello sorgono dei dubbi che voglia dire piccola porta. Ci sono motivi per pensare che la parola portello voglia dire piccolo porto. Piccolo porto. Come porto Pirenze c'era un tempo sui fiumi. Sì, per esempio a Padova c'è una porta che si chiama Porta Portello. Sarebbe un'endiadi. Il portello. Il portello, sì, infatti, volevo dirlo io. Bene, e noi la salutiamo e la ringraziamo. Grazie. Grazie anche da parte mia. E al prossimo mese. Va bene, ci risentiremo. Okay. Buona serata. Buonasera. Ringraziamo ancora il dottor Basso, che è stato veramente esauriente, e lo salutiamo. Allora, adesso ho una seconda canzone da presentarvi, però questa volta la dedico a una assidua ascoltatrice, che poi anche una mia carissima amica, che martedì scorso ha compiuto gli anni. La canzone è molto dolce e il marito Francesco e la sottoscritta gliela dedicano veramente col cuore. La canzone è cantata da Achille Togliani ed è intitolata Conoscerti. Se potessi parlare al destino, gli vorrei chiedere fa rivivere l'attima ancor del nostro incontro. Che tormento sublime, nel tuo sguardo leggere la felicità. Conoscerti è stato un incanto, amarti è stato un momento, baciarti è stato il tormento più dolce d'un sogno. E sempre sei stata più mia, e sempre sai darmi una gioia. La tua bontà è un miracolo d'amore. Meravigliosa e semplice, tu la mia felicità. È bello sentirti vicina, è dolce saperti lontana, per poi vederti tornata. Eccoci di nuovo in studio e, come annunciato in precedenza, salutiamo veramente con piacere il signor Giorgio Fantin. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Stasera ci racconterà tante belle cose, vero lei? Ma spero di che siano belle, io ne racconterò tante comunque. Va bene, allora lasciamo la parola al nostro Giorgio Fantin. Io ho un calendario da parlare di tutti, quasi tutti i giorni di novembre, ma devo logicamente riassumere. Ma il giorno primo di novembre capita, il giorno è una festa dove sono abituato con la mia famiglia, il giorno ci aspetta per andare a cimiteri. Io non ho neanche conosciuto il suocero, ma la suocera, sono sepolti a Follina. Ed è un cimitero simpaticissimo, tranquillo, bello, tolto un po' dalla moltitudine dei nostri cimiteri. E io ci vado volentieri, anche perché dopo l'omaggio nostro del cimiteriale andiamo a mangiare da Gigetto Amiane. Siamo amici da tanto tempo e ogni anno lui ci aspetta proprio quei giorni là, perché finisce in bellezza. Ci vediamo, è gentile, è bravo, si mangia bene e si sta bene, l'amicizia conta sempre, insomma. Sì. Le dirò una cosa, il giorno dei morti, io una volta avevo una mesa amorosa. Che è del giorno di novembre, proprio che giorno che sei nata, che brutto, perché prima era, una volta era più melanconico questo giorno, era triste, insomma. Adesso si va volentieri, ci sono intere famiglie che vedo nei cimiteri, vanno a trovare i loro... C'è stata un'evoluzione del costume, sì, diciamo. Ecco. Mi sembra che ci sia un po' un'evoluzione del costume, lo vedo più chiaro, più bello, più colorato quasi, vorrei dire, insomma. E ho anche un compleanno del professor Portoghesi, col quale io qui a Treviso ho lavorato, e adesso non è merito mio certamente, ma ha comprato un appartamento qui a Treviso per stare vicino. E ha compiuto 80 anni, Portoghesi. E mi ha mandato l'altro giorno un invito ad andare in Vaticano, perché devo presentare, gli faranno gli auguri degli 80 anni, e mi ha dato il permesso di arrivare in macchina, che non ci arriverò, ma perché ha fatto una cosa per il Papa e glielo presenterà, insomma. Essa è una cosa straordinaria. Quel bollo, sì, bellissimo, simpatico. Io voglio parlare di questo giorno 2 di novembre. Posso chiedere una cosa? Sì. Una volta era il 2 il giorno dei morti. Adesso è il giorno 2. Sì, però si festeggia... Perché il giorno 1 è festivo, tutti i santi, tutti i morti, tutti i santi, sono tutti morti, no, i santi. Una volta santi. C'erano le vacanze dei morti per i ragazzi, adesso morti, no, non ci sono più. No, è stato abolito. Cioè, è il giorno primo ormai, il giorno 1, insomma. Le dirò di più ancora, noi facciamo una piccola compagnia che per ricordo di un morto, Carletto Ancilotto, là, ci troviamo ogni primo martedì del mese a cena. Andiamo su un locale e mangiamo, siamo 10, 12, 14 persone, una volta l'anno andiamo con le mogli. E quest'anno capita il giorno di festa, dove dobbiamo mangiare, e allora lo sposteremo magari 3 giorni dopo o la settimana dopo martedì, perché è una tradizione, primo martedì del mese. Siamo la compagnia del Conte Ancilotto, che era un bel gastronauta, vorrei dire, insomma, picche gastronomico, insomma, era quello che piaceva mangiare, insomma. Ed è bello anche ricordare. Altre date che ho io, un 11 di novembre, che dovremmo parlare della mezzadria, dovremmo parlare di San Martino, dovremmo tagliare di questo Far San Martino. Sì. C'è un proverbio che dice: chi che non magna oca San Martino non ha un becco di un quattrin. E il giorno dopo mi fa anche la corsa delle oche. Ma la sagretta di San Martino è sempre simpatica, perché la facciamo anche nel sagrato nella chiesa di San Martino. E c'è anche la festa di Fanti assieme. C'è gente, una bella chiesa, Don Giorgio, il parroco del Duomo, è sempre presente, perciò è sempre piena. È un appuntamento, anche, è un appuntamento come di Santa Lucia, insomma, il Treviso sente queste piccole... questi anniversari, insomma. Merito naturalmente della congrega del recupero delle tradizioni della trevisane, congrega, esatto. Facciamo un po' di tutto, presentiamo dei piastrelli, ho fatto fare San Martino una boccaletta, beviamo un bicchiere di vino, una cantata se viene qualcuno quella convivialità del borgo, simpatica del borgo che Furo. È naturalmente nella tradizione nostra, sì, e avanti, insomma, castagnaccio, ecco, parliamo perché l'addizione ci porta il castagnaccio, ma tutto sul sagrato fate? Nel sagrato lo facciamo, prima lo facevamo in fianco, e una volta abbiamo San Martino, Sebate e Bagigi. Ah. Una volta abbiamo trovato una macchina, un macchinario, per poter fare un fumo, una fumera. Io ho comperato, qui a Treviso non ci sono campagne di campi di Bagigi. Di Bagigi, no. Sono da appena fuori a Padova, se non mi ricordo neanche, da Tre Basilichi in avanti, là su un paesetto. Ho comperato i frutti, loro me li hanno portati giù, li abbiamo battuti. Ci venivo anche di Gonzaga, bravissimi, Carlo di Cavai, una festa bellissima, ma c'ho una fumera. Gente lì ne voleva che facessimo il Camaggiò, il prossimo anno lo facessimo il Camaggiò, spara. Gente lì che piace tanto. Sì, viene sempre, è simpatico. Sì, è un compagnone. Queste cose semplici quasi, sempre fatto. E poi si sono portati indietro il raccolto, e mi ha restituito di soldi del raccolto, insomma. Addirittura. Perché cosa ne facevo del raccolto, certo, insomma, certo. Di Bagigi, insomma. Bisogna cucinarli. Ma sono cose poche conosciute, anche questo di Bagigi. E poi questa macchina è sparita, si è rotto la cinghia, non l'hanno più, e basta, non l'avevano più fatta. Era una cosa da vedere, un macchinario mostruoso al limite, insomma. E questo è San Martino, le facevamo sul fianco, ma perché c'era... il parroco che è andato in pensione adesso. Sì, come Don non liberale, mi ricordo più così. Sì, adesso siamo un giovane. A Don Liberale Baldo, mio compaesano. Sì, roncadese. E lui ci osteggiava perché era più coi fanti, insomma. Ho e adesso Don Giorgio metteva davanti, no? Facciamo illuminazione, mettiamo due tre bandierine, facciamo la cosa. Insomma, la segreta che si faceva su ogni... che la facciamo ancora su ogni piazzetta davanti alla chiesa, nel Sacrum, Sant'Agostino, Santa Rita, che Santa adesso 2 o 3 anni che non facciamo più, facciamo il Beato Erico, ora viene anche i poeti del 10 giugno. 10 giugno. Bello, sì. Che bella tradizione. Sì, e sono cose che mi sembra siano poco conosciute al di fuori. Ma ci di vengono queste, le persone, sì, vengono cioè, vengono, la più bella forse è San Martino e Santa Lucia. Santa sì, Lucia certamente. È una cosa eccezionale. A che ora fate? Alla sera? Facciamo il pomeriggio, insomma. Il pomeriggio. Qui adesso facciamo dalle 5 alle 7 e mezza, 8, insomma. Chissà ecco. Che capiti quest'anno. Va bene? L'aspetto. Sì. Il giorno 10 ho una data io, compi gli anni mia moglie. Allora facciamo tanti perciò, auguri. Un augurio, tanti auguri, certo, tanti auguri. Se Scorpione, ma ciò. Mi ha aspettato per me, no, è dolcissima. Perché c'è, lei non è che lo veda bene sto segno dello Scorpione? Ma ciò è Scorpione... Cauda veneno. Sì, ma una volta che avevamo gli scorpionetti per casa, si viveva tutto in 2000 piedi, altri tempi. Insomma. Allora, sua moglie dello Scorpione, lei? Posso essere solo di un segno... di tutti questi segnali che mi sono leone, cioè, no, se poi, però vado d'accordo con lo Scorpione. Il leone anche quello è un segno forte, vero? Sì. Bene, allora ci fermiamo un momentino prima magari che lei cominci a parlare di qualche altro argomento e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è cantata da Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Thank you. Ed eccoci di nuovo in studio con Giorgio Fontini e le tradizioni affascinanti della nostra terra che sono, come dire, per molti quasi dimenticate e noi le vogliamo riproporre. No, di tradizioni vorrei, siamo già il 14° anno quest'anno che io faccio la festa dell'oca. L'ho un po' copiata da Milano perché andavo a mangiare su un bellissimo ristorante 19 del Paradiso e loro fanno adesso una grande festa sagra nel paese, in centro paese, tutti in costume, fanno il gioco dell'oca con i quartieri che giocano e fanno questa corsa delle oche con 100 oche. Mamma mia. Tutti vestiti bene. Io la faccio invece con una 30-40 al massimo persone e tutti i ragazzi, cerco di fare i ragazzi per insegnare a questi bambini, a questi ragazzi, di mostrargli l'animale, perché loro lo conoscono virtualmente, lo vedono magari per cinema, per televisione, per il cellulare, ma non sanno toccare. E vorrei a questo proposito anche invitare Treviso Animale a venire, perché parlano contro gli animali. Perché io contro gli animali? Io sono per gli animali, gli animali. Certo, bisogna esatto. Essere vicino, voglierli bene, accarezzarli, chiamarli. Andavamo a pascolare oche, davo da mangiare alle oche. Una volta si andava a pasto con le oche. Mi quando ho detto incoconare, uno mi guardava le cose. Cosa vuol dire? E ora ho detto, potuto fare Treviso Animale. Un arcaismo, diciamo. Vieni con noi altri, vorrei bene agli animali. Poi faccio anche una mostra di animali, di un allevamento con tutte 30-40 sorti di animali, una più bella dell'altra, insomma. E però con la festa dell'oca c'è la l'oca rossa. I giorni che è passati della nostra fiera di San Luca si andava a mangiare, sono già da mangiare la festa dell'oca col saeno. Il saeno, che non è pezzettini di saeno, io ho i tocchi delle gambe di saeno e masticarlo, mangiarlo per asciugare la bocca della loca che è sempre grassa. Perché è un po' grassa, sì. Saeno, sempre, che è il sedano, naturalmente, per chi non conosce il sedano, la nostra lingua. E che ci sia eventualmente un cotonno dei fagioli e sedano tagliati piccoli come che sei. E questa una volta un si faceva straordinario, effettivamente. Soltanto loca rossa, anche a casa mia di giorni, soltanto loca rossa. E quando ho cominciato a avere in frigorifero una, perché verso Carnizan, una da Silea, uno alta Sile, uno basso Sile, un'altra da Ponsan, da un contadino, un'altra da un Murer, e ho imparato a fare mezza oca lessa e mezza oca rossa. Chissà che brodo grasso che ha fatto. Una roba eccezionale, sì, una roba eccezionale. Da noi a Mantova fanno l'anitra invece. L'anitra lessa. Per esempio l'anitra da Cortile, l'anitra muta, dove sei più? Non si vede più. L'anitra è muta, sparita dai cortili, dai nostri cortili. Sì, decisamente. L'anitra è un bel mangiare, l'anitra. Sì, ma però il brodo è grassa. Basta sgrassarlo un pochettino, sì, mettere i fegadini, Per esempio Alfredo Beltrame ci ha insegnato, andavamo a mangiare al sole, che c'è tanti, Don Fernando anche qua, le biccherie, che lo fa benissimo l'oca rossa. Al sole, una volta Alfredo Beltrame è venuto con noi e ha insegnato di aggiungere delle castagne lessate vicino al sugo dell'oca rossa. Servire sempre il piatto caldo, intanto, piatto caldo, oca, il suo sugo e dei castagne lessi, perché mangiare anche le castagne lesse asciugava la bocca da sugo. Quindi sono degli artifici, ce l'ha insegnato, e all'oca dal sole mangiamo così, sempre c'è questa tradizione. Anche queste cose poco conosciute, almeno io non l'avevo. Chiederò a Don Fernando se le fa anche, perché proprio è vicino a me Don Fernando. Don Fernando fa anche un bel patè di fegato, e sono due anni che non vado, perché vado con i compagni, mi porta via, ma da Don Fernando è bravo. Una volta si mangia benissimo. Un cuoco Egidio che faceva bene, insomma, e se regalavo un piatto, che porterò un piatto dell'oca la prossima volta. Comunque, Don Fernando si mangia bene. Sì. Ma vedi, il mangiare, per esempio, non solo dell'oca, ma di San Martin, ci sono le castagne, ci sono le masanette, che sono i folpi. Abbiamo da fare adesso una cena fra pochi giorni, masanette e folpi solo, e basta. Non mangiare primi, secondi, e dove terzi, la fate? In casa privata, perché facciamo in casa masanette privata. Masanette e folpi sono così... nomi che richiamano l'infanzia, molti anni trascorsi. Non c'è tanto il discorso. E poi c'era il castagnaccio. Castagnaccio dal Cherubino, se andava a mangiare castagnaccio, polvere si impieniva a bocca. Sì, mi ricordo, sì. Però il castagnaccio era un mangiare di poveri, ma tutti si andava dal cherubino in colori alto. Allora, a proposito di questo, posso leggere una poesia di Emilio Gallina? Sì, è un amico. Che proprio parla del castagnaccio di cherubino in via Rialto. No, colgo l'occasione proprio perché... Anche per salutare Emilio, anche per salutare Emilio. L'ho salutato ieri sera su una mostra che Tony Basso ha fatto sulla cucina trevigiana. Oh, bene bene. Allora, leggiamo questa poesia. Castagnaccio. Anindrio in via Ortasso, proprio in centro della città, in una bottega onta e scura, castagnasso si vendeva, come in quea de cherubino, giusto in vicolo rialto. Sta poenta de castagne, nea gran teccia parecciada, mora, alta quattro dei, tutta la via la profumava, invogliando chi passava a comprar quel goiosesso. Oltre a sta torta tedareta, che te onzeva man e bocca, anche fritto e che c'era de farina de castagne, tonde, grosse, maronette, che a mangiarle e te inciucava. Grandi, cei, soldai, studenti, tosatioi e signorine, con in man il suo scartosso se gustava sta delizia che sparia se dalla città. Beh, è simpatico, Gallina, sì. La descrizione è perfetta del castagnaccio. Vero, ma dal nostro modo di vivere, che i tempi lasciano, che si sparì. Un lifestyle, come diciamo adesso, ma era proprio una cosa adesso, straordinaria. Adesso, parlando sempre di Gallina, una volta che era, gli vendevi i caramelli per strada, gli vendeva il caino dei folpi, casa d'oro vicino a Coso, e che aveva il caino dei folpi, dava il folpo, e che aveva il scartosso dei bogui. I bogui. Era Emma, vendeva i trippe, aveva un gas. Trippe, tirava fuori bianche, le ti tagliava, che metteva sal grosso, prom, e mangiamo sì, come che trippe come che era. Adesso si cucina solo che castagne. E dove così castagne? Al Duomo. Al Duomo? Dove è il Duomo? E là, almeno gli anni scorsi sentivo anche il profumo, ma sto anno non so. No, che se meno, che se vicino alle beccherie, dove che era una volta Ermenegilda di frutta, insomma. Proprio nella piazza di Cunici, adesso si chiama Ancillotto, Ancillotto, sì, vicino alle beccherie. Sì, sì. E la sorella, qualche volta adesso si metterà in piazza San Vito, lì all'angolo fra la chiesa di Santa Lucia di San Vito, si mette a vendere castagne. E mi sembra uno adesso che sia al ponte di San Martino, di averlo visto passando in macchina. Ecco, forse qui era il Duomo, perché mi pareva che fosse proprio al Duomo i castagni. Il Duomo non l'ho mai visto. Va bene, allora ci fermiamo un momento e ascoltiamo un'altra canzone. Questa volta abbiamo Julio Iglesias con Tutto l'amore che ti manca. Perché vivo per ragioni di lavoro, sempre per il mondo, perché qualche mia sporadica avventura non va mai a fondo, perché sono consumato all'imprevisto, più di un marinaio. Perché sempre c'è qualcosa in più del feeling, meglio è seguire amando sempre me, e se poi vogliamo sfiorare la perfezione, anche in questa vita, dimmi ogni tua recondita emozione, anche la più ardita. Sappiamo come siamo e ci capiamo, c'è l'affiatamento. Se al momento hai un romantico discreto, meglio è seguire amando sempre me, per che sarò io. Capisco e capirò tutto l'amore che ti manca e gli intimi pensieri che una donna sempre sogna, gli antichi desideri che una donna sempre ama, perché solo io. Capisco e capirò tutto l'amore che ti manca. Io so esattamente bilanciare colpo e anima. Peccato se una storia tanto bella terminava. Se poi vogliamo sfiorare la perfezione, anche in questa vita, dimmi ogni tua recondita emozione, anche la più ardita. Già sappiamo come siamo, ci capiamo, c'è la fiatamento. E al momento hai un romantico discreto, meglio è seguire amando sempre me, perché sono io. Capisco e capirò tutto l'amore che ti manca e gli intimi pensieri che una donna sempre sogna, gli antichi desideri che una donna sempre perché solo io. Ed eccoci di nuovo con il nostro Giorgio Fantin, che penso che abbia ancora tante cose da raccontarsi. Però prima volevo fare io una domanda. Da noi a Mantova San Martino significa fare trasloco. Gliel'ho accennato inizialmente, c'è la mezzadria, cioè è il termine della campagna dell'annata agraria, dove il contadino consegna al proprietario la sua parte di avere, cioè molto di più della metà. Non era il 50%, il 50%, era il 45%, poi è passato il 40%, poi è passato più giù ancora. Ma e là c'è anche là, era le oche, gli animali, era il proprietario veniva a vedere cosa voleva prima, le bestie. E poi c'era in discussione il contratto d'affitto. Questo contratto d'affitto che non era un contratto d'affitto, era un contratto di mezzadria. Proprio l'affitto dopo è venuto in altro modo successivamente. La mezzadria doveva determinare, era di anno in anno, cioè scadeva ogni anno, non c'era una continuità. E perciò, se il contadino non era bravo o non dava del genio al padrone, a San Martin doveva far scampar via. Far patini e mi dice, cioè far fagotto, sì. Ma c'è anche un bel film di L'albero degli zoccoli, straordinario. Ma qui noi non l'abbiamo l'abbiamo sentito e fatto, ma non l'abbiamo patito molto, perché probabilmente i nostri contadini, gli arabei contadini, si è fatto i 76 ore. Ecco, facendo, ma non dico rubando al proprietario, ma lavorando giorno e notte, e si sono fatti. Erano vite vendute. Vite vendute. Sì. Io dietro la chiesa di San Pelaio ho messo a posto una casa. Fino agli anni 60, c'erano 52 persone che ci abitavano su quella casa là. L'ho trovata divisa in due nel sottotetto con della rete, perché erano due famiglie con delle scale diverse. E io ho fatto una casa per due persone, marito e moglie. Adesso hanno una figlia adesso. Se pensi, le mezzadrie era una cosa terribile, anche bella di viverla, ma poi alla fin fine dovevi stringere i conti e fare i conti. Era anche una questione di, come dire, di dover convivere, perché anche allora c'erano screzi, magari cose di questo tipo, però si era come dire, costretti a convivere, quindi si vedeva una solidarietà, se vogliamo, forzata, ma si sapeva che bisognava andare avanti tutti assieme. I nostri contadini venetesi abbastanza stai furbi, era furbetti, insomma, i nostri contadini che aveva dai senza i contadini proverbi, se aveva tutto mi qua non si mangia oca, sì, esattamente. Oppure quando a botte parlava piena, sapevano tutte le cose. A botte piena la moglie imbriaga. Sì, noi facevamo mai, beveva il prete in cantina, perché se era il goto e vedeva quanti salami che erano soppressi. Questa è una battuta forte. Sì, tante cose. Comunque un bel patrimonio tutti i proverbi, perché sì. Che diciamo che sono abbastanza, capendoli bene, sono abbastanza veritieri, insomma. Sono azzeccati la maggior parte delle volte, poi va bene per tutto, insomma. Sì, sì, ma... Beh, io li avevo l'altro una volta nel computer, adesso li ho persi, ma ce ne sono tantissimi di tutti i tipi, proprio vanno per ordine, c'è quelli per le donne, ci sono quelli, insomma, ce ne sono tanti. La saggezza contadina era quello, il patrimonio di conoscenza. Il Pallini già piena, se non fa rumore. Se fa rumore di casa vola, per forza. Per forza. Comunque si faceva anche il vino, no? Si beveva il vino nuovo a novembre? Ormai era... Il vino nuovo, adesso il vino novello mi viene male, ma insomma il vino novello dovrebbe essere l'8, mi pare in Francia, c'è l'8 di novembre, da noi l'11-12. Ed è una mania, ferma la fermentazione del vino, mentre che noi altri saremmo lasciare ancora l'uva, che venga bella più matura e magari più dolce, e magari fa il vino a novembre, cosa. Il vino bello, io ho su un'osteria a Portofiera per tutta la mia vita un bottiglione di vin prosecco da Natorme, vin fresco, dolce. E ho fatto i lavori in casa per il papà, è già morto, e Fiola dice: finché ti sei vivo mi te davo sempre un bottiglione, non a Tormo questi giorni qua. Queste sono le tradizioni del tempo. Queste tradizioni che non sono impagabili, perché ho detto pagare 500 franchi di un bottiglione di vino. Il discorso è che sono di consuetudini e tradizioni che bisogna sempre mantenerle e non farle dimenticare. Tradizioni è quella che è il nostro vivere, insomma, oggi come oggi. Ma il prosecco dolce, perché mi ho sempre sentito il prosecco... No, perché è vin nuovo, è prosecco ma vin nuovo. Ho capito, è frizzante da o fermo? È sempre fermo. Ah, sempre fermo. Dopo lo lavorano, il prosecco diventa prosecco e mi non bevo più. Ma il vino naturale lo può bere sempre, si può bere, insomma. È perché c'è la mania delle bollicine, che pensare che fanno male, diciamo che bollicine. È una variazione, no, preferisco un rosso, io bevo volentieri le rosso. Esigenze del mercato si evolvono, sì, naturalmente, sì, sì. Poi ci sono anche quelli come posso dire, che si induce a cambiare attitudini, abitudini e compagnia, quindi c'è anche questo, insomma. Adesso che c'è troppi prosecchi e li fanno anche giù qua in pianura, e perciò vendono in tutto il mondo, e se è giusto faccia così. Certamente. Vediamo negli anni, spero di morire più tardi possibile e vi conterò la storia del prosecco. Ah, la patria del prosecco cosa sarebbe? La collina. Cioè Conegliano e Valdobbiadene proprio sono zone evocate, chiaramente. Sì. Bene, ci fermiamo un momentino per ascoltarci un'altra canzone, e questa volta abbiamo Francesco De Gregori in Buonanotte Fiorellina. Bene. Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte. buonanotte monetina, buonanotte tra il mare e la pioggia, la tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia, gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Oh, eccoci di nuovo in studio. Mi è venuta voglia di un prosecco, però chissà perché a me piace il prosecco con le bollicine. E poi dicono che fa, ma effettivamente è vero, ti gonfia lo stomaco. Invece tanti lo bevono fermo. No, intanto no, lei berrà un bel bicchiere di prosecco e lo berrà volentieri, ma tre bicchieri non li beve? No. Ah, ecco, vedi. No. Noi siamo abituati a bere 4-5 bicchieri. No. E ora io tengo il rosso, lo bevo 5-6 bicchieri di rosso, ma se bevo 2 bicchieri di prosecco mi fermo. Naturalmente senza guidare, perché chiaramente queste sono cose che una volta... Insomma, guido dopo... Ho visto che il mio corpo, ognuno di noi... Ognuno di noi ha la propria, una volta il proprio avevo metabolismo. Bevuto in piazza, diciamo. Ho bevuto spritz con l'apero, no con l'apero, col beat, ho bevuto due bicchieri di rosso. Il vigile mi ha provato in piazza, normale, una prova così. Perfetto. Io non era niente, perciò ognuno di noi ha il suo... Ha la propria capacità di smaltimento, certo. Bene, ormai siamo arrivati quasi al termine del programma. Non mi sono ricordato da San Martino... che Ardizzoni fa un dolce di San Martino, cioè disegna... Il cavallo di San Martino. Il cavallo, il cavaliere, e disegna le cose. Sì, è abbastanza diffuso, mi pare, questo. È verso Milano, è anche dell'Ocan, verso Milano, è una, cioè, un tonolo là, li faceva, lì ne ho portato uno, e da qualche anno li fa anche Ardizzoni. Ero detto, preparami 7-8, che te ne compro due, che altri ti vendo se te vuoi. Ma son tradizioni da mantenere, anche perché chiaramente richiama non solo, diciamo, il far San Martin nel senso di traslocare, eccetera, ma il senso di viverlo come San Martino l'ho vissuto, cioè questo senso di solidarietà. Ecco, San Martino è il santo che si è tolto, ha tagliato la metà del mantello, eccetera. Il mantello l'ha diviso a metà. Io glielo avrei dato tutto. Sarei stato come Salomone, non avrei tagliato un mantello. E però sono quelle figure che sono veramente carismatiche. Proprio sì, il modo sarà la leggenda. Esatto. E che oggi, come dire, sarebbero necessarie più di una volta, probabilmente. Io ne ho due tabarri che metto su colloquio con San Martino, proprio perché il tabarro è... un elemento che si può versare anche il vino sopra, deve scorrere via. Un altro elemento imprescindibile della campagna veneta. Tagliare un tabarro. Tagliare tabarro. Un altro proverbio. Sì, vuol dire parlare male della gente. C'è anche un'associazione di tabarri, no? Ma c'è una congrega del tabarro, ma che deriva da Milano, che ha dei tabarri eccezionali veneziani, quindi qua sarebbero più contadineschi. Insomma. Esattamente. Ho capito, parleremo anche di quelli, adesso la prossima volta avremo anche uno di questi qui in trasmissione, così ci parlerà anche dei tabarri. Sono tutte tradizioni che chiaramente sembrano lontane millenni ed erano cose dell'altro giorno. Noi li cerchiamo giorno per giorno. Questo riportare alla luce e riportare alla memoria, soprattutto perché siamo un popolo smemorato. Io ho l'impressione che questo sia una cosa fondamentale e meritoria. Bene, allora, architetto, signor Giorgio Fantini, mi viene spontaneo così. Noi la ringraziamo infinitamente perché veramente ci ha dato delle notizie, ha parlato delle tradizioni in maniera stupenda, e ci sentiremo in seguito, vediamo un po' se ci vediamo volentieri. Ecco, appunto, così vi farò sentire eventualmente. Intanto, appunto, le rinnoviamo i ringraziamenti e le auguriamo un buon mese di novembre. Altrettanto. E buona serata. Buona serata. Antonio. Alla prossima, amiche e amici, alla prossima domenica. Grazie e buonanotte. Auguro a tutti voi una buonanotte. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.